Bene, cari amici, adesso prendiamo in mano il nostro libro Il falsario, la lotta quotidiana contro Satana e siamo arrivati al capitolo terzo, stiamo finendo il capitolo terzo, oggi lo finiamo brevemente per poi passare al capitolo quarto. E nel capitolo terzo ci siamo posto il problema di come ha avuto origine il demonio. Abbiamo visto che Dio ha creato tutte le cose visibili e invisibili, buone, e fra le cose invisibili, cioè quelle che noi chiamiamo cose invisibili, sono gli angeli e purissimi spiriti che hanno pervertito se stessi in demoni. Quindi Dio non ha creato il demonio, ha creato gli angeli, i quali, essendo stati sottoposti alla prova, una parte di loro è caduta, nel senso che si è ribellata a Dio e quindi hanno pervertito se stessi trasformandosi in demoni. Questa naturalmente questa fa parte della rivelazione divina, c'è cioè una testimonianza della Sacra Scrittura che troviamo appunto nella lettera di Pietro, la seconda lettera di Pietro, capitolo secondo, dove si parla appunto che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio, ed è anche questa caduta degli angeli ricordata da Apocalisse al capitolo 12, versetti 7-9, dove si dice appunto che scoppiò una guerra in cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, e non ci fu più posto per essi in cielo. E quindi furono precipitati sulla terra il drago e con lui furono precipitati anche i suoi angeli, dice l'Apocalisse. Quindi vedete che per quanto riguarda questa caduta degli angeli c'è una testimonianza biblica, poi il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica il peccato degli angeli dicendo che essi, questi spiriti creati, hanno radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. E noi abbiamo sottolineato appunto il carattere irrevocabile della scelta degli angeli ribelli, in quanto essendo purissimi spiriti potevano in un solo istante decidere in un modo definitivo e irrevocabile davanti a Dio, perché era la prova superata la quale Michele e i suoi angeli hanno avuto accesso alla visione beatifica, mentre Lucifero e i suoi si sono eretti contro Dio. Il carattere irrevocabile della scelta è nella stessa natura angelica. L'uomo, per arrivare a una scelta irrevocabile, invece ha bisogno del tempo della sua vita. Nel tempo della sua vita, l'uomo matura la sua scelta irrevocabile per Dio, oppure il suo rifiuto irrevocabile contro Dio. Nell'ultimo paragrafo del terzo capitolo, dedicato appunto all'origine di Satana, a pagina 25, abbiamo sottolineato questo passaggio dall'Apocalisse che è importante, e cioè che il drago fu precipitato sulla terra. Naturalmente, è lecita questa domanda. Per quale motivo il Satana e i suoi seguaci, per quale motivo gli angeli ribelli, dunque, non sono stati rinchiusi subito all'inferno? Vi ricordate che Gesù ha detto, capitolo 25 di San Matteo, via da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per gli angeli, per Satana, no? Preparato dunque per coloro che si sono ribellati a Dio. Per quale motivo dunque non è stato subito Satana con i suoi seguaci non sono stati subito rinchiusi nell'inferno? Questa è una domanda assolutamente lecita, è una domanda che ci fa molto pensare per quale motivo Dio abbia lasciato Satana agire qui su questa terra. Ci fa molto pensare perché sappiamo quanti danni abbia fatto e faccia Satana qui su questa terra. Ebbene, cari amici, certamente una risposta non è facile a questo, Però non bisogna mai perdere di vista la prospettiva, e cioè che Cristo si è fatto uomo ed è venuto per sconfiggere Satana, e Satana è stato sconfitto, e a noi è data la possibilità di sconfiggere Satana con la grazia di Cristo. Ecco dunque, benché il grande drago precipitato sulla terra sia in grado di fare tanti danni, sia in grado di far deviare tante anime dalla via del bene, tuttavia gli uomini hanno la grazia di poterlo vincere insieme a Cristo. Per cui la presenza di Satana qui su questa terra ha il significato di prova per l'uomo. D'altra parte non dimentichiamo mai che Satana, anche prima della venuta di Cristo, non poteva costringere l'uomo al male. Satana non ha mai avuto potestà sul libero arbitrio dell'uomo. Anche dopo il peccato originale, l'uomo poteva, se voleva, non peccare. Infatti Abele non peccò, peccò Caino perché volle peccare. Per cui la presenza di Satana qui su questa terra ha un significato nella economia divina, cioè nel governo divino del mondo, ha un significato di prova per l'uomo, come la tentazione è una prova per l'uomo. Una prova che l'uomo comunque può superare, e superandola merita la palma della vittoria. Allora adesso completiamo questa ultima parte della pagina 25, in cui cerchiamo di spiegare per quale motivo Dio, invece di rinchiudere Satana e i suoi seguaci, gli angeli ribelli nell'inferno, li ha lasciati sulla terra. Li ha lasciati sulla terra perché l'uomo vive qui sulla terra il tempo della sua prova. E quindi Dio si è premunito di dare all'uomo le armi necessarie per sconfiggere il maligno, in modo tale che la redenzione fosse non solo una grazia di Dio, ma anche un merito dell'uomo. E va anche detto, cari amici, che in un certo senso Dio ha accolto la sfida del demonio, perché avendo Dio creato l'uomo libero, il demonio in qualche modo sfida Dio. Lo sfida in che cosa? In questo, detto in parole molto semplici, l'uomo con sua libera scelta sceglie me invece di te. Questa è la grande sfida che il demonio lancia a Dio: ottenere il consenso degli uomini, i quali nella loro stoltezza danno il consenso al pervertitore anziché a Dio creatore. Dio accetta la sfida del demonio. E naturalmente dobbiamo dire, per ogni anima che si perde, Dio versa lacrime di sangue, indubbiamente. Però, come abbiamo già indicato, e questo mi pare che sia da tenere presente, come abbiamo già indicato, l'affresco finale, indubbiamente non segna una sconfitta di Dio. Perché una moltitudine immensa saranno i salvati, dice l'Apocalisse. Anche il giudizio di Dio con cui condanna Satana è una vittoria di Dio. La punizione che avranno il maledetto e i maledetti, indubbiamente, per quanto sia dolorosa questa defezione, a suo modo celebra la gloria di Dio, perché celebra la sua onnipotenza, la sua potenza, ma anche il suo rispetto per la libertà creata. Allora concludiamo questo capitolo, cari amici, col quale cerchiamo di spiegare, di capire il governo divino del mondo che ha lasciato spazio al demonio qui su questa terra. È un mistero, sapete. Dio che lascia lo spazio al demonio qui su questa terra. In qualche modo Dio ha accettato la sfida del demonio, ma l'ha sconfitto e dà a noi la possibilità di sconfiggerlo. Alcuni potrebbero dire, ma se relegava il demonio là sulla terra, forse là nell'inferno, forse non ci sarebbero state delle anime che non si salvavano. Beh, cari amici, allora si potrebbe anche dire, se Dio non creava il mondo, non c'era nessuno che si perdeva. È chiaro che il concetto che ho espresso più volte, e cioè che Dio creando le creature libere di angeli e uomini ha rischiato, è verissimo. Ma d'altra parte, se voleva il loro libero amore, adesione, sottomissione e obbedienza, non poteva non rischiare che ci fosse anche il rifiuto. Quindi Dio si è preoccupato di impedire che Satana potesse carpire la libertà dell'uomo. Il peccato è tale solo se c'è libero consenso, diversamente non c'è peccato. Per cui per diventare preda del demonio bisogna volerlo. Dio ha dato questo limite all'azione del demonio. Per impadronirsi delle nostre anime noi dobbiamo volerlo. Diversamente non può impadronirsi, cari amici. Voi dite, e giustamente dite, ma è un rischio, ma certo che è un rischio. Ma cosa sarebbe, che valore avrebbe il nostro amore per Dio, cari amici, se non ci fosse la possibilità di un rifiuto? È un conto avere un bimbo libero, è un conto avere una bambola in casa, cari amici. Il bimbo libero può scappare anche di casa, però può anche invece darvi tante soddisfazioni. E il medesimo atteggiamento l'abbiamo noi nei confronti di Dio. Dio ha creato delle creature libere, non sono certo gli animali che gli danno le soddisfazioni, ma sono gli uomini, i quali però possono anche purtroppo rifiutare il suo amore. Dunque, completiamo dunque questa seconda parte della pagina 25, dove dico, forse ti riuscirà più difficile comprendere perché mai Dio, invece di rinchiudere subito il drago insieme ai suoi angeli nell'abisso, come accadrà alla fine del mondo, vedi Apocalisse capitolo 20, versetto 10, gli ha lasciato libertà di azione su questa terra. Tu lo vedi all'opera fin dal principio, in Genesi 3,1, insomma, nella bellezza del paradiso, ecco questa serpe. Lo vedi in opera fin dall'inizio nella sua azione omicida, come dice Gesù, in Giovanni 8,44. Un'azione omicida perfida e instancabile. Perché, ci chiediamo, Dio permette a Satana di agire per tutto il tempo della storia umana? Perché gli concede di trascinarci al male e di dare una caccia spietata alle nostre anime, con la possibilità di costruire un suo regno di morte in alternativa al regno di Dio? E dico, sono interrogativi ai quali non è facile rispondere, perché le nostre vie non sono quelle di Dio e i nostri pensieri non sono i suoi pensieri, dice Isaia, al capitolo 55, versetto 8. Satana ha cercato fin dal principio di opporsi al piano di Dio creatore. L'orgoglioso e il temerario ha lanciato la sfida. Dio l'ha accolta realizzando il suo disegno nascosto fin dall'eternità di ricapitolare in Cristo tutte le cose, come dice Paolo nella lettera di Efesini al capitolo 1. Quindi Dio accetta la sfida di Satana e porta a termine il suo piano dove ha il libero consenso degli uomini. Ecco perché noi non finiremo mai abbastanza di meditare sul sì libero della Vergine Maria. Scusate, ma Dio non poteva farsi uomo senza aspettare il sì della Madonna? Vedete quanto Dio valorizza la libertà. Perché? Perché è la libertà delle creature che fa sì che la creatura sia simile a Dio, sia una persona, sia un partner. Chi di voi sposerebbe un animale, cari amici? Non è possibile. Ma Dio vuole sposare le sue creature, ma lo può fare solo con le creature intelligenti e libere. E proprio con la loro adesione, a incominciare da quella straordinaria della Vergine Maria, Dio realizza col nostro consenso il piano di ricapitolare in Cristo tutte le cose. È il metodo di Dio, cari amici, la sua pedagogia. Scusate, ma Cristo non poteva salvare tutti gli uomini senza la Chiesa? Certo che lo poteva, ma ha voluto usare la Chiesa e forse se lo faceva da solo faceva meglio. Ma lui ha voluto valorizzare la nostra responsabilità e la nostra libera adesione. È il suo modo di governare quello, cari amici, di valorizzare al massimo questo apice della creazione che è la libera creatura. Ma ciò nonostante, cioè nonostante che Dio non forzi mai la nostra libertà, attenzione, tuttavia il suo progetto infinito di amore verrà infallibilmente attuato nonostante l'opposizione di Satana, il quale per scelta propria ne rimarrà escluso con tutti i suoi, testimoniando così anch'egli la gloria, l'onnipotenza e la giustizia del Creatore. E qui termino, cari amici, con quel concetto che vi ho già espresso molte volte, cioè che l'inferno non è un fallimento di Dio. L'inferno è un dolore per Dio. Satana è un dolore per Dio. Le anime dannate sono un dolore per Dio, ma è anche, a loro modo, tutto questo testimonia la grandezza di Dio creatore che ha voluto rischiare nel creare esseri simili a lui perché intelligenti e liberi, e l'esistenza di chi ha rifiutato Dio esalta, in un certo senso esalta veramente, cari amici, la vittoria di chi invece ha aderito al bene, alla verità, alla luce, alla pace, all'amore, alla fede. Quindi anche l'inferno ha una sua intelligibilità, come, cari amici, in qualche modo la notte ha un suo valore, perché in questo modo comprendiamo che cos'è il giorno, e così questo antidio che è l'inferno ci fa comprendere il valore grandissimo delle scelte di chi invece ha voluto prendere la via del bene, la via del rinnegamento di sé, la via della sottomissione e la via della adorazione. Ecco, dunque, che abbiamo cercato di rendere intelligibile questa decisione divina di lasciare che Satana avesse potere su questa terra. C'è da dire, come abbiamo già accennato, che prima della redenzione aveva un potere maggiore, tanto da essere chiamato il principe di questo mondo, tuttavia era un potere ancora limitato, perché anche prima della redenzione Satana non poteva forzare la libertà umana. Dopo la redenzione c'è la forza della grazia e della preghiera con la quale noi possiamo affrontarlo e vincerlo. Vi ricordate l'invito della regina della pace, no? Affrontate e vincete Satana con il rosario in mano. Ecco dunque, cari amici, abbiamo terminato questo affresco, un affresco grandioso in un certo senso, che ci dà la parola di Dio sull'origine del male e sulla sua presenza nel mondo. Va detto però che la presenza del male nel mondo oggi è una presenza che può essere vinta, perché Satana è già stato vinto da Cristo e da noi la grazia per vincerla. È una presenza che può essere vinta, per cui se il male è così forte nel mondo, questo è perché noi volutamente abbiamo dato forza al demonio. E ci sono tanti seguaci del demonio oggi, cari amici, tantissimi. Non soltanto quelli espressi, che sono pochi, ma quelli che sono al suo servizio in quanto attori, diciamo, protagonisti del mondo del peccato, del mondo del male, sono al suo servizio. E quindi la forza che Satana oggi nel mondo è certamente la forza che gli danno gli uomini. E dico di più, cari amici, che più noi cresciamo nel bene, nella luce, nell'amore, più diminuiamo questa forza, più indeboliamo questa forza. Quindi non solo la forza di Satana non solo dipende da chi gli dà la forza, ma dipende anche dalla forza della luce, cioè più debole è la luce, più grandi sono le tenebre. Quindi più risplenderà la nostra luce nel mondo, più deboli saranno le tenebre. La forza di Satana, in qualche modo, è la debolezza della nostra santità. E adesso che abbiamo terminato il capitolo terzo, incominciamo il capitolo quarto, col quale, intitolando il capitolo quarto, l'avversario di Dio. Bisogna vedere il capitolo quarto e il capitolo quinto, cioè adesso cerco di cogliere la natura del demonio, cercare di capire cos'è il demonio. Allora lo facciamo in tre capitoli, per sapere chi è Satana, perché non ci rendiamo mica conto di chi è noi. Lo facciamo nel quarto, nel quinto e nel sesto capitolo. Il quarto capitolo è intitolato l'avversario di Dio, il quinto capitolo il nemico dell'uomo, il sesto capitolo il principe di questo mondo. Sono tutte affermazioni bibliche. Infatti la parola Satana vuol dire avversario. È l'avversario di Dio, è il nemico spietato dell'uomo ed è il principe di questo mondo. Cerchiamo di capire la natura del maligno e del suo potere. Questo quindi sono capitoli molto importanti. Dopo aver spiegato l'origine del male, come ha avuto origine il male, adesso alla luce della parola di Dio, noi cari amici cerchiamo di capire chi è il maligno. Chi è il maligno? Ed è la scrittura che ci rivela la sua natura. La scrittura ci dice che il maligno è l'avversario di Dio, l'antidio, colui che si oppone a Dio con tutte le sue forze, colui che vuole distruggere Dio dal cuore dell'uomo, colui che vuole cacciare Cristo da questo mondo. Infatti la croce è il tentativo di Satana di cacciare Cristo da questo mondo. E l'anticristo, il figlio primogenito di Satana, sarà colui che vorrà eliminare Cristo e la Chiesa da questo mondo. L'abbiamo visto nel nostro libro, il Dies Irae, questo, sulla base proprio della Bibbia. Allora noi dobbiamo cercare di capire la natura del maligno, perché non ci sono idee chiare nella gente, anche fra i cattolici, su questa natura. Le idee chiare sono nella Bibbia e nel magistero della Chiesa, ma non nella testa della gente, che non si rende conto di cosa sia il maligno, pensa che il maligno sia uno che disturba, che con le fatture, con queste cose qui, oppure pensano che sia un povero diavolo, insomma che sia una caricatura, eccetera. Non si rende conto, cioè la gente, il mondo, non si rende conto, neanche i cristiani purtroppo, non si rendono conto della malvagità del maligno, perché lui si nasconde, la copre. Ma in lui c'è una carica di odio distruttivo che noi non abbiamo neanche l'idea. Sono soltanto i santi che sanno chi è il maligno. Lo sa la scrittura perché Dio ce lo rivela, ma per esperienza chi è il maligno lo sanno soltanto i santi. Solo loro sanno chi è il maligno e qual è la sua forza di distruzione, di perversione, di malizia. Non a caso Paolo parla di mysterium iniquitatis, e questa, l'iniquità è un mistero che non si riesce a capire. Ci sono soltanto delle menti perverse che, essendosi alleate col maligno, ne condividono la maliziosità, la cattiveria, la distruttività. Ma la gente comune non se ne rende conto, nonostante che la Bibbia ci dia delle immagini più che sufficienti per stare alla larga. In quanto lo chiama non solo il serpente antico, ma il leone ruggente che va in cerca di coloro da divorare, e lo chiama il drago infuriato. Si legga l'Apocalisse per vedere che cos'è il maligno, la sua furia distruttiva, il suo odio verso Dio. Ebbene, cari amici, noi cerchiamo adesso di cogliere il primo aspetto che ci interessa del maligno, che è il suo odio distruttivo nei confronti di Dio. Non dimenticate che Satana vuol dire l'avversario di Dio. E quindi in questo capitolo vedremo, primo, l'odio contro Dio, la sete di adorazione di Satana, che vuole essere Dio al posto di Dio, colui che si oppone in tutti i modi ai piani di Dio, cerca di intralciarli, e colui che vuole costruire un regno alternativo al regno di Dio. Quindi vediamo l'odio che divora Satana, l'odio verso Dio che divora Satana, e tutti coloro che negano Dio, che odiano Dio, che combattono Dio, Cristo, la Chiesa, hanno del suo veleno nel loro cuore, non facciamoci illusioni. L'odio contro Dio c'è inoculato da Satana. Poi vedremo il nemico dell'uomo, ma l'uomo è nemico dell'uomo, però si camuffa. Adesso vediamo allora questo primo paragrafo, l'odio contro Dio, e leggiamo e commentiamo. Mentre Dio si rivela all'uomo, Satana si occulta. Dio si rivela all'uomo, Satana si occulta. Quando agisce è abilissimo nel coprirsi dietro le persone, le cose, gli avvenimenti. Si nasconde e si presenta sempre con l'aria buona. Tu lo vedi nei suoi seguaci, i veri seguaci di Satana, proprio quelli che lo imitano bene, sembrano dei santi. È il falso angelo di luce. Si occulta perfettamente dietro le persone, le cose e gli avvenimenti. Egli è menzognero e padre della menzogna, dice Gesù, Giovanni 8,44. Per cui il suo linguaggio nasconde i suoi veri sentimenti, le sue reali intenzioni e gli obiettivi che persegue. Quando si manifesta, quindi lui si nasconde sempre, Satana, dietro le persone, le cose e gli avvenimenti. Quando si manifesta, assume l'apparenza esterna di angelo di luce, seconda lettera di Paolo ai Corinti, capitolo 11, versetto 14. Quindi lui si occulta. Quando si manifesta, assume l'apparenza di angelo di luce. Se egli riesce a indurre l'uomo al peccato e a impadronirsi silenziosamente della sua vita, è perché è abilissimo nel proporgli il male sotto l'apparenza di bene, adescandolo con felicità illusorie e riuscendo perfino a presentare se stesso come un benefattore. Ecco perché dobbiamo smascherarlo alla luce della parola di Dio, smascherare la carica di malizia, di perfidia, di odio distruttivo e di menzogna che ha dentro di sé. È strano, se ci pensi bene, che colui che la scrittura presenta come un leone ruggente e un drago infuriato finisca per essere indicato nel linguaggio comune come un povero diavolo. Il mondo conosce così poco Satana che ha finito per negarlo oppure per ridurlo a una caricatura innocua come quelle bestie feroci dello zoo senza unghie e senza denti che si abbuffano con le merendine dei bambini. Ecco, Satana sarebbe uno di quelli, stai fresco. Per conoscere il maligno nella sua profondità occorre seguire attentamente la sua manifestazione nella storia della salvezza. È la luce di Dio, in modo particolare quella di Cristo, che rivela la vera natura del menzognero, cioè è Cristo che ci rivela chi è Satana veramente. Allo stesso modo lo conoscerai nella vita dei santi e in un certo senso anche nella tua, se sei seriamente impegnato nel cammino spirituale. La falsa rappresentazione del maligno che hanno molti cristiani costituisce un vero pericolo per le loro anime. Identificarlo nella sua vera natura è fondamentale per riuscire vincitori nel combattimento spirituale. E noi lo faremo, cari amici, questo lavoro di svelarlo nella sua vera natura di avversario spietato di Dio e di nemico micidiale dell'uomo. E per ora, cari amici, ci fermiamo qui, proseguiremo nella prossima lezione a presentare appunto la tesi fondamentale del capitolo quarto, cioè che Satana è innanzitutto l'antidio, l'avversario irriducibile.